Allora, riprendiamo in diretta le trasmissioni da Radio Onda Rossa per darvi conto di una iniziativa in corso al Corceo, al concerto di Piazza San Giovanni, dove sono stati aperti degli striscioni e dove attualmente si trovano un certo numero di compagni e compagne a dar vita a questa iniziativa. Pronto, sei in diretta, puoi andare in onda. Ok, ciao a tutti e a tutti. Oggi, proprio perché è giornata del 1° maggio, la festa dei lavoratori, però pare, oltre a tanti lavoratori che comunque possono lavorare, oggi maggior ragione questo palco che è stato montato da tecnici, facchini, tutto personale che lavora sempre nei grandi eventi, che era deciso proprio perché ha sollevato un problema relativo alla sicurezza, ma e per sicurezza non solo quella sul posto di lavoro, ma tutto quello che concerne una continuità di un reddito, delle assicurazioni giuste, perché questa categoria che monta questi eventi così grossi non è riconosciuta, ha della contrattualistica, diciamo, anche fittizia, o si appoggia a contratti che non sono adatti. Per questo siamo venuti qua oggi, abbiamo volantinato, ovviamente il numero sarà inferiore di volantini rispetto alla mole di gente che c'è, siamo arrivati quasi fin sotto il palco, abbiamo aperto lo striscione con questi contratti nessuna sicurezza, abbiamo messo un altro striscione appeso su una torretta di ripetitore audio per maggiore visibilità, con lo slogan che abbiamo usato altre volte, che era The Show Must Go Off, che significa che per poter dire che dopo le tragedie di Trieste e Reggio Calabria non basta andare avanti e dire che bisogna stare più attenti, bisognava fermarsi e capire cosa che non andava. Questi palchi giganteschi, oggi abbiamo letto su Repubblica XL, questa rivista per giovani e per musica e arte, che parlava appunto di come i grandi concerti e i grandi palchi siano dannosi per la musica stessa. Ecco, questi sono i problemi che devono uscire fuori e oggi stiamo cercando di fare proprio questo, sì, diciamolo, anche cercando possibilità, facendo capire agli altri che stanno sui palchi a montare, a lavorare in questo momento, che qualcosa bisogna cambiare per forza. Senti, come l'hanno presa i partecipanti al concerto e dal palco come è stata giudicata? Al concerto c'è da dire che il volantino fa sempre il suo vecchio effetto, per cui comunque la gente se lo legge e più o meno cerca di capire. Ovvio, qualcuno che magari si lamenta perché non vede il concerto ci sta sempre, ma il spiega, bisogna solo fare un po' più di lavoro, e una volta gli dici sei tu quello che fai, che ha permesso questo evento, devono tutti quanti capire quello che si sta facendo. E dal palco vanno esattamente con il loro slogan di sempre, cioè lo show va avanti qualsiasi cosa accada, quindi loro stanno qui, sono un po' più preoccupati, nel senso c'è un po' di sicurezza che appunto chiedeva quanto lo tenete, queste cose così e niente, però loro vanno avanti, dal palco non si è mossa una virgola. E per tutto, cioè, così. Nessun invito da parte del palco, no, a qualcuno? Al momento no, forse succederà, vedremo. Va bene, noi siamo qui e quando avete aggiornamenti, novità, ci risentiamo. Certo. D'accordo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.